Don't jump. Binary chemical weapons. A couple of years ago, I co-wrote a song with a great Italian singer. His name is Ivano Fossati. I say I co-wrote it. Really, I played some chords on this instrument, the stick, and he did the real work. He came up with a great melody and wonderful, very meaningful words in Italian, which he released on his record in Italy. And once in a great while, I like to present this song for American audiences. Allo stomaco magro, questa giovane sposa dovreste farla mangiare di più. Ha un brutto sogno da donna che non dice a parole, ma sposta metro per metro nell'erba fredda. Un soldato miserabile sui binari bruciati, in italiano teatrale grida viva la follia, e lei ho paura delle buone notizie perché è peggio di come si dice, anche l'incendio di Babilonia fu dimenticato così. Cosa volete che sia, signori? È tutto tempo che passa. Cosa volete che sia? È un abito che si indossa. Cosa vuoi mai che sia? È il tuo tempo che passa. Le alzò un poco la gonna e lui le disse: vieni ora. L'ultimo soldato ebbe fatta scorta di lei, e quel freddo carnale si sente ancora bella, col suo profumo volgare come le sette di vittoria da consumare per giorni, e così sia. Cosa volete che dica? È tutto tempo che passa. Cosa volete che dica? È un abito che si indossa. Cosa volete che sia, bella? È tutto tempo che passa. Il soldato le disse: ho paura, e lei ripose: dormi ora. En el silencio somos torpes, como en la ceguera. En este abrir de ojos, desaparecemos.